prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. All'estero dunque con la Caritas, che ci aiuta a guardare anche al di fuori dei nostri problemi. Le condizioni sono sempre più drammatiche, quelle della popolazione siriana in patria, nei campi profughi allestiti nei paesi confinanti. Continuano le violenze, lo ha confermato anche il presidente di Caritas Siria, Antoine Odon, nell'appello lanciato qualche giorno fa alla rete Caritas. Si sta sviluppando la rete di accoglienza dei rifugiati siriani nei paesi confinanti, oltre 400.000 persone tra Libano, Giordania e Turchia. Lì è già attivo il contributo delle Caritas nazionali di questi paesi. L'assistenza però all'interno della Siria è molto più difficile e pericolosa, come è difficile sapere effettivamente davvero che cosa succede. L'appello per le operazioni all'interno della Siria contiene due elementi nuovi. Per prima cosa, una sensibile crescita dell'impegno dello staff nazionale, che è stato creato da pochi mesi, che si sforza con l'aiuto di decine di volontari di coprire un'area sempre più vasta del paese, nonostante l'oggettivo peggioramento della situazione e la difficoltà negli spostamenti. Inoltre si è passati, anche questa è una cosa bella da dire, ad una concreta collaborazione con le organizzazioni musulmane. Questo elemento assume un grande significato per ricreare condizioni di convivenza fra le varie entità religiose del paese, che sono portate inevitabilmente a sospettare l'una dell'altra a causa di questo conflitto. Anche Caritas Turchia ha elaborato un primo piano di assistenza ai profughi siriani, che in numero sempre maggiore stanno oltrepassando appunto il confine verso nord, dalla Siria verso la Turchia. In un primo momento il governo turco aveva gestito le operazioni di accoglienza senza coinvolgere le organizzazioni non governative, ma come detto il numero di sfollati continua ad aumentare vertiginosamente, aumentano di conseguenza i costi, le difficoltà operative, quindi il governo ha chiesto aiuto agli organismi nazionali ed internazionali. E arrivano appunto due appelli distinti. Uno è della Caritas Siria, la quale ricorda che sono almeno 1,5 milioni le persone sfollate all'interno della Siria, che hanno dovuto abbandonare le loro case, oltre 2,5 milioni le persone che sono in grave stato di vulnerabilità. In quasi tutto il paese 330 scuole danno un provvisorio rifugio a migliaia di sfollati. Il loro numero continua a crescere. I prezzi dei viveri di base sono aumentati fino al 300%. Scarseggia il carburante, scarseggia il combustibile per l'inverno, e l'inverno anche in Siria è rigido, ci sono zone montane. I bambini non vanno a scuola, appunto perché c'è comunque un conflitto in atto, le scuole sono occupate per dare alloggio alle persone. Rapimenti, sofferenza, paura attraversano tutto il paese e colpiscono anche tutte le comunità etniche e religiose, qui davvero senza differenza. Le richieste che arrivano agli uffici di Caritas Siria sono innumerevoli ed è stato necessario selezionare le priorità ed elaborare un piano per le persone più vulnerabili. Ad esempio si prevede di poter assistere 1,600 famiglie e circa 10,000 persone, che sono poche rispetto al 1,5 milioni che è fuori dalle proprie case, nella zona di Damasco, Aleppo, Homs, Assaqeh, nella zona del litorale. Il progetto andrà avanti, è già iniziato a novembre, andrà avanti fino ad aprile 2013, fornendo mezzi per affrontare l'inverno. Servono stufe, combustibile, coperte, materassi, vestiario. Un obiettivo limitato, dunque, appunto, superare questa stagione invernale, ma della massima urgenza. Lo staff di Caritas Siria operativo nella sua sede principale di Damasco. Il costo complessivo di questa operazione è di oltre 600.000 euro, e dunque l'appello è anche a tutti coloro che magari con una piccola offerta possono contribuire a questa iniziativa. Basta far riferimento alla propria Caritas parrocchiale, che poi si farà portavoce presso la Caritas diocesana, ma anche dalla Turchia. Appunto, dall'interno del conflitto abbiamo capito arriva un appello, anche dall'interno, dall'esterno, dalla Turchia arriva un ulteriore appello. C'è un progetto di assistenza per gli sfollati siriani vittime del conflitto che hanno trovato in riparo in Turchia. 400.000, ma i numeri ufficiali poi è difficile capirli. L'impegno della Caritas turca è rivolta verso le famiglie che non sono accolte all'interno di campi profughi, costrette quindi a trovare una sistemazione autonoma. Qui un progetto che riguarda la provincia di Gaziantep, nelle cittadine di Kilis e Reyhanli, per assistere circa 15.000 profughi, anche qui con generi di prima necessità, alimentari, coperte, vestiario invernale, carbone e cure mediche. A tutti sarà offerto un servizio. Il progetto prevede una durata massima di 12 mesi. Questo è più costoso, costa circa 985.000 euro. E dunque un appello che ci siamo sentiti di rilanciare. Tutte le offerte appunto per queste finalità si possono inviare alla propria Caritas diocesana. Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Ma c'è anche un'altra situazione, forse è passata così con qualche immagine nei giorni scorsi, nei telegiornali, e poi è andata via, ce ne siamo già dimenticati. Il tifone nelle Filippine, il tifone Boffa, che ha causato centinaia di vittime e 160.000 sfollati. Il direttore di Caritas Filippine, padre Edwin Garrigues, sintetizza la situazione con queste parole: i bisogni più urgenti sono cibo, acqua, farmaci di base, materiali per riparare le case, in particolare nelle zone più remote e difficili da raggiungere. Passata l'immediata urgenza, sarà poi necessario provvedere anche alle sementi necessarie per ripristinare l'attività agricola di cui vive la maggior parte delle famiglie. L'allerta per questo tifone, fortunatamente rispetto ad altre volte, è stato immediato e quindi molti hanno potuto trovare riparo nelle chiese, negli edifici pubblici, nei rifugi anticiclone. La provincia di Agu Busan del Sur è stata colpita per circa metà della sua estensione, con un totale di circa 1.400 case danneggiate. Alcuni villaggi ancora rimangono inaccessibili e non si è ancora potuto effettuare un computo dei danni. In alcune delle zone colpite le comunità stanno già rientrando nelle loro case, altrove gli sfollati invece trovano rifugio negli edifici pubblici durante la notte, rientrando in casa durante il giorno per cominciare a riparare i danni. Si teme ovviamente la contaminazione dell'acqua. Anche Caritas Italiana e l'intera rete internazionale seguono l'evolversi della situazione a sostegno della Caritas e della popolazione locale. Anche qui, come detto, basta far riferimento per un'offerta alla Caritas diocesana. La causale è emergenza Filippine. Comunque fate riferimento agli operatori appunto per dare un'indicazione. Possiamo suggerire anche così un'idea: siamo a pochi giorni dal Natale, certo c'è la crisi, tutti siamo in difficoltà, magari abbiamo pensato di ridurre i regali. Ebbene, questo può essere un regalo. Magari noi, i nostri nipoti, i nostri figli non hanno bisogno di cose, qui invece ci sono migliaia di persone che hanno davvero bisogno dell'essenziale, quindi potrebbe essere che lo stanziamento dei soldi, o magari una parte che avevate pensato di mettere via per i regali di Natale, venga destinato appunto a queste iniziative. Quindi pensateci, magari proprio questo periodo di Natale che sta per arrivare può aiutarci anche in questo. Andiamo ora a ricordare anche un appuntamento con la Caritas veneziana. C'è anche qui la possibilità di informarsi per un capodanno diverso, 31 dicembre, quindi da passare insieme a persone con le quali magari non si penserebbe mai di passarlo, ad esempio al centro d'onorione di Chirignago, e aspettare il nuovo anno insieme, in amicizia insieme a tante persone, magari in modo diverso rispetto al solito, cercando di fare un po' del bene ma anche di ricevere del bene, perché no? Per le informazioni basta andare sul sito www.caritasveneziana.it e lì trovate le quattro esperienze appunto da vivere. C'è il Capodanno, ma tra poco poi ci sarà anche il Carnevale. Altro appuntamento questa domenica 16 dicembre alle 15.30 nella Cattedrale di San Marco a Venezia. Ci sarà come da calendario l'incontro della Carità con i bambini e le loro famiglie. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.